Eccoci. Siamo sempre lodati Gesù e Maria. Stasera avremo un incontro molto particolare, molto bello, sulla figura di un grande personaggio biblico che è Tobia. Non so chi di voi conosce un pochino la storia di Tobia, perché questo libretto si trova dopo il libro dei, quindi al termine dei libri storici. Allora, tanto per contestualizzarci un po', allora, ci siamo fermati la volta scorsa a Eliseo. Io vi ho detto che, se vi ricordate, dobbiamo fare un attimo mente locale e ricordare il profilo storico della storia di Israele, perché i libri storici a cui siamo fermati, Primo Samuele, Secondo Samuele, Primo Re, Secondo Re, Primo Cronache e Secondo Cronache, narrano tutto quanto il succedersi dei regni e dei re in Israele da dopo Salomone in poi. Non contengono episodi molto, cioè tutta la Sacra Scrittura è importante, però sono dei passi un po', per esempio nel libro delle cronache ci sono delle ripetizioni di alcune cose del regno di Davide, eccetera. Quindi saltiamo, adesso abbiamo un ciclo di libretti che sono di Tobia, di Ester e di Giuditta, che si collocano, Tobia e Ester in particolare, anche Giuditta, durante la dominazione assira. Vi ricordate la parte storica che nel 731 il regno di Israele del nord viene distrutto dagli assiri e rimane vivo soltanto da quella data in poi il regno del sud, cioè il regno di Giuda. E quindi questi libri si collocano in questo contesto. Terminata questa serie di libri passeremo direttamente all'ultimo periodo della storia, diciamo pre-Nuovo Testamento di Israele, che è il ciclo dei Maccabei, quindi dalla dominazione di Alessandro Magno in poi, che contiene molti episodi edificanti. Dopo c'è il ciclo dei libri sapienziali, non so se riusciremo a finirlo quest'anno, e dopo c'è il ciclo dei libri profetici. Quindi probabilmente, io l'avevo detto l'anno scorso, il Nuovo Testamento ci vogliono un paio d'anni, penso, per esaurirlo tutto quanto, tanto non ci abbiamo fretta. Ora, la slide che vedete rappresenta Tobia a fianco ad un arcangelo, quell'arcangelo è Raffaele, perché il libro di Tobia è un libro che è molto bello, infatti è anche molto facilmente leggibile, cioè non è un libro difficile come tanti libri della Sacra Scrittura. Infatti questa sera molte cose le leggeremo in diretta, anche perché gli insegnamenti sono intuitivi, uno basta che legge l'episodio e già capisce qual è l'insegnamento che ne vuole trarre. Diciamo che uno, volendo fare una sintesi e degli insegnamenti di questo libro, sono le opere di misericordia, perché vedremo che sia soprattutto Tobi, il padre di Tobia, era un uomo non soltanto giusto ma un uomo dedito ad una particolare opera di misericordia corporale, che è quello del seppellire i morti, e questa è cosa che gli ha dato grandissimi meriti agli occhi del Signore. Poi c'è la presenza dell'arcangelo Raffaele, che vedremo intervenire nella vicenda del figlio di Tobia, sotto vari punti di vista, e lo vedremo anche come avversario, il nemico di un demonio. Nel libro del profeta, nel libro di Tobia viene nominato esplicitamente un demonio non da tutti conosciuto, che è Asmodeo, che è il demone della lussuria. Poi vedremo i guai che combina contro quella che poi sarebbe diventata la moglie di Tobia, che è Sara. Ecco, è anche un testo molto utile per comprendere la santità del matrimonio, perché nella vicenda di Tobia e Sara ci sono dei passaggi, e alcuni dei quali sono anche contenuti nel lezionario del rito del sacramento del matrimonio. Ci sono delle letture che possono essere scelte per il giorno delle nozze, perché il modo con cui Tobia e Sara interpretano il matrimonio è un modo santo, ci sono degli spunti, insomma, di riflessione attualissimi e validi ovviamente anche per noi, diciamo. Quindi questo è un pochino il quadro. Tenete presente che si colloca, adesso lo vedremo subito, durante il periodo assiro, quindi stiamo nel, per volendo collocarlo storicamente, stiamo nell'ottavo secolo avanti Cristo. siamo un attimo avanti e vediamo subito. Allora, la storia di Tobi, il libro di Tobia comincia con la storia di Tobi. Tobi era il padre di Tobia. E adesso cominciamo a leggerlo. Vediamo innanzitutto la descrizione nel capitolo 1 di quest'uomo come uomo giusto e misericordioso. Libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, di Aduel, di Gabael, di Raffaele, di Raguel, della discendenza di Asiel, della tribù di Neftali. Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri, egli fu deportato dalla città di Tisbe, che sta a sud di Chedes di Neftali, nell'alta Galilea, sopra Asor, verso occidente, a nord di Sefet. Introduzione storica. Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli e ai miei compatrioti, che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. Quindi, uno, l'elemosina. Mi trovavo ancora nel mio paese, la terra di Israele, ed ero ancora giovane, quando la tribù del mio antenato Neftali, se vi ricordate, era uno dei figli di Giacobbe, abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme, la sola città fra tutte le tribù di Israele scelta per i sacrifici. In essa era stato consacrato il tempio di Salomone, dove abita Dio, ed era stato edificato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici su tutti i monti della Galilea, al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato a Dan. Io ero il solo che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste per obbedienza ad una legge perenne prescritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti degli animali, con le decime del bestiame e con la prima lana che tosavo alle mie pecore. Consegnavo tutto ai sacerdoti, quindi vedete, adempia la legge di Israele, la legge del Levitico e dei Numeri, che tutte le decime dovevano essere consegnate al Tempio del Signore in sacrificio a Lui. E con le decime del bestiame, con la prima lana che tosavo alle mie pecore, consegnavo tutto ai sacerdoti, figlio di Aronne, per l'altare. Davo anche ai Leviti che prestavano servizio a Gerusalemme le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima ogni anno e andavo a spenderla a Gerusalemme. La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano con gli israeliti. La portavo loro ogni 3 anni e la si consumava insieme, come vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Deborah, moglie di Ananiel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva lasciato orfano. Quando divenni adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio che chiamai Tobia. Dopo la deportazione in Assiria, quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani. Ma io mi guardai bene dal farlo, poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore. L'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, dal quale presi a trattare gli affari. Venni così nella Media, dove finché egli visse conclusi affari per conto suo. Fu allora che a Rage di Media, presso Gabael, fratello di Gabri, depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento. Quando Salmanassar morì, gli successe il figlio Sennacherib. Se vi ricordate un po' di storia, questi sono nomi famosi, questi qui, di re Assiri. Allora le strade della Media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente. Davo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettarlo dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellì anche quelli che aveva ucciso Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella sua collera egli uccise molti israeliti. Io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e Sennacherib invano li cercava. Ma un cittadino di Ninive andò a informare il re che io li seppellivo di nascosto. Quando seppi che il re mi conosceva il fatto e che mi si cercava per essere messo a morte, colto da paura mi diedi alla fuga. I miei beni furono confiscati e passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie Anna con il figlio Tobia. Neanche 40 giorni dopo il re fu ucciso da 2 suoi figli, i quali poi fuggirono sui monti dell'Ararat. Gli successe allora il figlio Assaraddon. Essi diede ad Achicar, figlio di mio fratello Anael, l'incarico della contabilità del regno. Egli ebbe così la direzione generale degli affari. Allora Achicar prese a cuore la mia causa e potei così ritornare a Ninive. Al tempo di Sennacherib re degli Assiri, Achicar era stato gran coppiere, ministro della giustizia, amministratore e sovrintendente della contabilità, e Assaraddon l'aveva mantenuto in carica. Egli era mio nipote e uno della mia parentela. Quindi vedi in questo capitolo la figura di Tobi, quindi uomo giusto, uomo santo, dedico alle opere di misericordia, fedele a tutte quante le prescrizioni sacre, quindi porta le decime al tempio, fa l'elemosina ai suoi cari e seppellisce questi morti, andando poi a pagare di persona contro l'ordine del re. Quindi questo è il quadro di questo santo uomo. Nel capitolo 2 troviamo invece una disgrazia, diciamo così, che non sarà una disgrazia come vedremo, ma una prova che succede a Tobi. Andiamo avanti. Sotto il regno di Assaraddon ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la compagnia di mia moglie Anna e del figlio Tobia. Per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: figlio mio, va e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme a noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni, figlio mio. Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: padre, gli risposi, ebbene, figlio mio? Padre, riprese, uno della nostra gente è stato ucciso e gettato nella piazza. L'hanno strangolato un momento fa. Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole per poterlo seppellire. Ritornai, mi lavai e mangiai con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. E piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellii. I miei vicini mi deridevano dicendo: non ha più paura, proprio per questo motivo l'hanno già ricercato per ucciderlo, è dovuto fuggire e ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Adesso stare attenti. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achicar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio tessendo la lana che rimandava poi ai padroni ricevendone la paga. Ora, nel 7° giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre una mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai suoi padroni, perché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata. Ella mi disse: mi è stato dato in più del salario. Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirle ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, vedete le femmine, mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Già la seconda volta troviamo una cosa del genere, eh? Quindi un uomo che cerca di fare il bene e poi una signorina che lo sfotte, gli dice: visto, tu fai del bene e guarda che cosa ne trai in cambio. Bene, quindi questo è il secondo capitolo. E abbiamo letto anche qualcosa delle beffe della moglie. Ecco. Allora, nel capitolo seguente, Tobi prega e rivolge al Signore il proprio lamento. È molto bello perché, fate attenzione, al terzo capitolo c'è questa preghiera di Tobi, vedremo poi che nel penultimo capitolo c'è la lode e il ringraziamento di Tobi al Signore. Tu sei giusto, Signore, giusto sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori dei miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno e il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, perché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che io sia liberato da questa prova, fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto, per me infatti è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Saltiamo adesso qualche... Vi invito a... a considerare insomma anche la santità di quest'uomo. È un tema biblico ricorrente. Lui interpreta questa disgrazia che gli è capitata come castigo di Dio per i peccati suoi e per quelli dei suoi padri. Stare attenti a vedere quante volte ricorre questo tema nell'Antico Testamento, perché qualcuno oggi lo mette un pochino in discussione. Ora, poco più avanti, torniamo un attimo che dovrei... si sovrappone, o meglio si aggiunge, un'altra storia, cioè la storia di Sara e la maledizione di Asmodeo. La leggiamo, com'era, 7:16. Quindi, contemporaneamente, a mentre Tobi sta elevando questo lamento e gli è accaduta questa disgrazia, a Sara, figlia di Raguele... Raguele era un cugino di Tobi, quindi era un parente, abitante di Ecbatana nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Avete capito che succedeva? Questa? Appena uno sposava con lei, prima è morto. 7 volte. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti? Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno ha potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: che non insultino mio padre e non gli dicano la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te innalzo il mio volto, i miei occhi, comanda che io sia tolta dalla terra perché non debbano sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza, che non senta più insulti. Guardate, in quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio. E fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedessi la luce di Dio, e a dare a Sara, figlia di Raguele, e a dare Sara, scusate, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderle sposa prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Guardate che proprio, vedete che c'è, è facilissimo questo libretto, è anche molto edificante la semplice lettura. La preghiera di due persone, ecco, ingiustamente colpite ed ingiustamente poi perseguitate a causa della disgrazia capitatevi, che pregano sempre conservando l'atteggiamento di lode e di ringraziamento verso il Signore, però dicendo: guarda, io accetto queste cose, però piuttosto che vivere così, toglimi la vita. E invece il Signore le esaudisce e poi vedremo come li guarirà tutti e due. Allora, il capitolo seguente tratta dell'esortazione di Tobia a Tobia, quindi si ritorna e compare l'altro personaggio che è il protagonista poi di questo libro, che è Tobia, figlio di Tobi. In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabbael a raggio di Media e disse in cuor suo: ecco, io ho invocato una morte, perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Chiamò il figlio e gli disse: figlio, quando morirò dovrai darmi una sepoltura decorosa. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà dovrai darle sepoltura presso di me in una medesima tomba. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore. Guardate che padre santo questo qua. Non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Perché se agirai con rettitudine avrai fortuna nelle tue azioni. A tutti quelli che praticano la giustizia, fai elemosina con i tuoi beni e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi, fai elemosina, secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare elemosina, secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Vi invito a ritornarci su queste cose, Il valore grande che ha agli occhi di Dio l'elemosina. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione. Questo testo lo leggerò poi durante un incontro di formazione per i genitori, così, sperando che sia qualche papà, perché queste sono le cose da insegnare ai figli, non tutte quante le sciocchezze che insegnano oggi. Prenditi anzitutto una moglie dalla stirpe dei tuoi padri, non prendere una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, poiché noi siamo figli di profeti. Ecco, perché non si prende una moglie da una straniera? Perché se no avrebbe fatto la fine di Salomone. Ecco, quindi attenzione a quando uno si sposa, a chi si mette dentro casa. Dopo voglia piagne, ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, i nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti i loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. E ora, figlio, ama i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli e per i figli e le figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di te la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, a tutto ciò che fai e sii ben educato in ogni tuo comportamento. non fare a nessuno ciò che non piace a te, non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Date il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai nell'elemosina quanto ti avanza e quando fai elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. Chiedi consiglio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene e abbassa fino al profondo degli inferi. E ora figlio, ricordati di questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Ora figlio, ti comunico che ho depositato 10 talenti d'argento presso Gabbael, figlio di Gabri, a raggio di Media. Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai il timore di Dio, se ti fuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore tuo Dio. I compiti per la prossima settimana, prendete il quarto capitolo di Tobia, specialmente, e ve l'ho imparata a memoria, corto. Specialmente chi ha i figli, ecco, impararlo a memoria per metterlo in pratica, ad litteram, diceva San Francesco, sine glosse. Non temere, figlio, che siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai il timore di Dio, ecco, l'unica grande ricchezza. Se rifugirai da ogni peccato, e se farai ciò che piace al Signore tuo Dio. Dove stanno questi santi padri oggi? Che insegnano queste sante cose ai figli? Ce ne sta ancora qualcuno in giro? Boh, ecco. Allora, nel quinto capitolo vedremo Tobia che parte e incontra un personaggio che lui non capisce chi è. Continuiamo la lettura. Ho detto adesso, questo libro ce lo leggiamo quasi tutto, meglio tutto, perché scende leggero e tranquillo ed è bene seguirlo, insomma, per trarne tutti gli insegnamenti. Se non finiamo oggi, pazienza, ci aggiorniamo alla settimana prossima. Allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io farò, o padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle strade da prendere per andare in Media. Rispose Tobi a suo figlio Tobia: mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho posto il mio autografo. Lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. La sua parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque, oh figlio, un uomo di fiducia che si metta in viaggio con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabbael a ritirare il denaro. Uscì Tobia e cerca qualcuno pratico della strada. Chi trova? Uscì e si trova davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: di dove sei, oh giovane? E rispose: sono uno dei tuoi fratelli israeliti e sono venuto qui a cercare lavoro. Capito, perché c'aveva voglia di lavorare San Raffaele. E riprese Tobia: conosci la strada per andare nella Media? Gli disse: certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le strade. Spesso sono andato nella Media e ho alloggiato presso Gabbael, un nostro fratello che abita a raggio di Media. Ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatan a Raggi. Raggi è sulle montagne ed Ecbatan è nella pianura. Allora Tobia gli disse: aspetta, giovane, che vado ad avvertire mio padre, ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario. Gli rispose: ecco, ti attendo, però non tardare. Tobia andò a informare suo padre Tobi dicendogli: ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti. Gli rispose: chiamalo, perché io sappia di che famiglia, di che tribù è e sia persona fidata per venire con te, o figlio. Tobia uscì a chiamarlo. O giovane, mio padre ti chiama. Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e l'altro gli disse: possa tu avere molta gioia. Tobi rispose: che gioia posso ancora avere? Sono un uomo meno amato negli occhi, non vedo la luce del cielo, ma mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più la luce. Pur vivendo mi sento tra i morti. Avverto la voce degli uomini, ma non li vedo. Gli rispose: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio. E Tobi: mio figlio Tobia vuole andare nella meglio, non potresti andare con lui e fargli da guida? Io ti pagherò, fratello. E rispose: sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade. Mi sono recato spesso nella media, ho attraversato tutte le sue pianure, i suoi monti, e ne conosco tutte le strade. Tobia gli disse: questa è una brutta domanda. Fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Dimmelo, fratello. Ed egli: ma che ti importa la tribù? L'altro gli disse: voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio e il tuo vero nome. Rispose: sono Azaria, figlio di Anania il grande, uno dei tuoi fratelli. Gli disse: allora sii benvenuto, in buona salute, o fratello, non avertene a male, o fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio parente, di buona e distinta discendenza. Conoscevo Anania e Natan, i due figli di Semei il grande, venivano con me a Gerusalemme e la facevano adorazione insieme con me. Non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente. Tu sei di buona radice, sii benvenuto. Continuò: ti do come ricompensa una dracma al giorno e per quanto riguarda il tuo mantenimento lo stesso che a mio figlio. Fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò qualcosa di più. Gli disse: farò il viaggio con lui, non temere. Partiremo sani e sani torneremo da te, perché la strada è sicura. Va bene, poi si mettono in viaggio e cominciano questo viaggio. Cosa succede poi durante il viaggio? Prima tappa, che succede? Tobia incontra Sara, figlia di Raguele. Allora partono. E che succede? Arrivano sul fiume Tigri. Adesso attenzione, questo è un particolare importante. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzando dall'acqua tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l'angelo gli disse: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: apri il pesce e togline il fiele, il cuore e il fegato. Mettili in disparte ma getta via gli intestini. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti. Ricordate che Raffaele significa medicina di Dio, eh? Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato. Arrostì una porzione del pesce e la mangiò. L'altra la mise in serbo dopo averla salata. Poi ambedue ripresero in viaggio finché non furono vicini alla media. Allora il ragazzo rivolge se all'angelo questa domanda: Azaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiale del pesce? Gli rispose: quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà da lei ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna. Il fiale invece serve per sformarlo sugli occhi di chi è affetto da macchie bianche. Si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono. Erano entrati nella media e già erano vicini ad Ecbatana, quando Raffaele disse al ragazzo: fratello Tobia. Gli rispose: eccomi. Riprese: questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara e all'infuori di Sara non ha altro figlio o figlia. A te come parente più stretto spetta il diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di suo padre. È una ragazza saggia, coraggiosa, molto graziosa e suo padre è una brava persona. E aggiunse: tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera per serbartela come fidanzata. Quando torneremo dalla città di Rage celebreremo le sue nozze. So che Raguera non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri. Egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè, perché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia. Ascoltami dunque, fratello, questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno dalla città di Rage la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua. Allora Tobia rispose a Raffaele: fratello Azaria, ho sentito dire che ella è stata già data in moglie a 7 uomini ed essi sono morti nella stanza nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Inoltre ho sentito dire che un demone lo uccide i mariti, quindi Tobia c'era un po' paura, per questo ha paura il demonio a lei, non fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre, ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita, non hanno un altro figlio che possa seppellirli. A quello gli disse: hai forse dimenticato i modi di tuo padre che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami dunque, fratello, non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie. Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà. Il demonio lo dovrà annusare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno intorno a lei. Capito perché quando ci stanno indemoniati si brucia l'incenso esorcizzato? Ecco, questo è il fondamento remoto di questa pratica insegnata da San Raffaele Arcangelo, d'accordo, per cacciare i demoni. Poi, prima di unirti con lei, alzatevi tutti e due a pregare. Vorrei tanto sapere quanti sposi fanno questo la prima notte di nozze. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia. Non parliamo delle altre nozze prima della prima notte di nozze, insomma. Poi, prima di unirti con lei, alzatevi tutte e due a pregare. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere, ella ti è stata destinata fin dall'eternità. Vedi i matrimoni santi? I matrimoni santi, non tutti i matrimoni, ma i matrimoni santi, vedete come sono scritti in cielo fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla, ella verrà con te e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli, non stare in pensiero. Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua parente della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò molto senza poter più distogliere il suo cuore da lei. Avete visto che bello questo libretto? Allora, poi abbiamo il capitolo settimo, dove Tobia chiede la mano di Sara e subito dopo Raffaele debella Asmodeo. Guardate che Asmodeo è cattivello, eh? Pare che sia il numero due nella gerarchia dei nemici. Allora, quando fu entrato in Ecbatana, Tobia disse: fratello Azzaria, Azzaria e Raffaele, ricordatevi sempre, conducimi diritto dal nostro fratello Raguele. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile, lo salutarono per primo ed egli rispose: salute fratelli, siate benvenuti. Li fece entrare in casa, disse a sua moglie Edna: quanto somiglia questo giovane a mio fratello Tobi? Edna domandò loro: di dove siete fratelli? Ed essi risposero: siamo dei figli di Neftali, deportati a Ninive. Disse allora: conoscete nostro fratello Tobi? Le dissero: lo conosciamo. Riprese: sta bene? Risposero: sta bene, viva e vive. E Tobia aggiunse: è mio padre. Raguele allora balzò in piedi, l'abbracciò e pianse. Poi gli disse: sì, benedetto figlio, hai un ottimo padre. Che sventura per un uomo giusto e generoso nel fare elemosine essere diventato cieco. Si gettò al collo del parente Tobia e pianse. Pianse anche sua moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara. Poi gli macellò un montone del greggio e fece loro una festosa accoglienza. Si lavarono, fecero l'abluzione, eccetera. Tobia disse a Raffaele: fratello Azzaria, domanda a Raguele che mi dia moglie mia cugina Sara. Raguele udì queste parole e disse al giovane: mangia, bevi e sta allegro per questa sera, poiché dal momento che tra poco c'è il funerale, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla a un altro uomo all'infuori di te, poiché tu sei il mio parente più stretto. Però figlio, voglio dirti con franchezza la verità: l'ho data a 7 mariti scelti tra i nostri fratelli e sono tutti morti la notte in cui entravano da lei. Ora figlio, mangia e bevi, ecco, e il Signore sarà con voi. Lo sentite? Ma Tobia disse: non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Riprese Raguele: lo farò. Ella ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data. Abbi cura di lei, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore dal cielo vi assista questa notte, o figlio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace. Allora, Raguele chiamò sua figlia Sara e quando venne la prese per mano la affidò a Tobia con queste parole: prendila, secondo la legge, il decreto scritto nel libro di Mosè, ti viene concesso in moglie, tienila sana e salva, conducila da tuo padre, il Dio del cielo vi conceda un buon viaggio e pace. Chiamò poi la madre, e poi Raguele chiamò sua moglie Edna e le disse: sorella mia, prepara l'altra camera e conducila dentro. Quella andò a preparare il letto della camera come lei le aveva ordinato e vi condusse la figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e le disse: coraggio figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore, coraggio figlia. Adesso guardate poi che succede. Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, prese dal suo sacco il fegato, il cuore del pesce, e li pose sulla brace dell'incenso. L'odore del pesce respinse il demonio che fuggì verso la regione dell'Alto Egitto. Attenzione, vedete l'Egitto, patria dei demoni. Parentesi, se ci avete in casa cose che vengono dall'Egitto, ecco, le prendete e le buttate tutte al secchio, possibilmente dopo avergli dato fuoco, perché era ed è patria dei demoni, per il vostro bene, se non ce l'avete dentro casa. Chiusa parentesi. Raffaele vi si recò all'istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. E questo è il brano che si legge durante la messa degli sposi, ma oggi lo scelgono in pochi, anche perché in pochi, come dire, adesso lo sentite. Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Vedete come inizia sempre la preghiera del più israelita, sempre con una benedizione, sempre. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Dopo la benedizione si narrano le opere sante che Dio ha fatto. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto, degnali di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. E dissero insieme: amen, amen. Poi dormirono per tutta la notte. Ma dormirono vuol dire dormire, cioè non è dormire metaforico, è dormire letterale. Ecco. Ma Raguele si alzò, chiamò i suoi servi e andarono a scavare una fossa. Diceva infatti: se mai morisse, non diventeremo così motivo di scherno e di vergogna. Quindi hanno scavato la fossa. Quando ebbero terminato di scavare la fossa, Raguele tornò in casa, chiamò sua moglie e le disse: manda uno delle serve a vedere se è vivo, affacciate un po', se così se è morto lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia. Mandarono quella serva, accesero le lampade e aprirono la porta. Quella entrò e trovò che dormivano insieme immersi nel sonno. La serva uscì e riferì loro: è vivo, ecco, e che non era successo nulla di male. Resero lode al Dio del cielo e dissero: tu sei benedetto Dio, degno di ogni benedizione perfetta, ti benedicano per tutti i secoli. Tu sei benedetto perché mi eri colmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei tuoi figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia. Allora ordinò ai servi di riempire la fossa, perché dopo esce quello, la vede aperta, prima che si facesse giorno, dice: chiudiamo la fossa. Raguele ordinò alla moglie di fare pane in abbondanza, andò a prendere dalla madre due vitelli e quattro montoni, li fece macellare e cominciarono così a preparare il banchetto. Poi li chiamò Tobia e disse: per 14 giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere, e così allieterai l'anima già tanto afflitta di mia figlia. Di quanto possiedi prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio figlio, io sono tuo padre ed Edna è tua madre, noi apparteniamo a te come questa tua sorella, da ora e per sempre. Coraggio figlio. Stanno a vedere che bello? Questo è senza commento, questo qui. Quindi la tomba viene ricoperta, puntini puntini, perché ecco, Raffaele ha vinto. Ecco, ci si avvia poi verso la conclusione, che forse riusciamo a finirla oggi. Nei capitoli 9 e 10, che non sono tanto importanti, possiamo forse anche saltarli un po', si celebrano le nozze di Tobia e il ritorno a casa. Quindi Tobia torna a casa. Passiamo direttamente, direi, al capitolo 11, dove vedremo la guarigione di Tobi. Anche perché dopo ci sta tutto il discorso di San Raffaele, che bisogna assolutamente reggerselo, eh? Quindi qui c'è Tobi che conta le giornate, che stava in pensiero, insomma, che non vedeva l'ora, insomma, che tornasse, eccetera eccetera, però lui non poteva partire perché il suocero ha detto che per 14 giorni dovevano stare lieti e contenti, ecco, dopo la prima notte di nozze. Allora, quando furono nei pressi di Caserin, di fronte a Ninive, Raffaele disse: tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre, corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa mentre gli altri vengono. Si incamminarono tutti e due insieme, poi Raffaele gli disse: prendi in mano il fiele, ricordate? Quindi il fiele era per quest'altro motivo. Il cane che aveva accompagnato lui e Tobia li seguiva, Anna intanto sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava. Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: io so che i suoi occhi si apriranno, spalma il fiele del pesce sui suoi occhi, il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi, così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. Anna corse avanti, si gettò al collo di suo figlio dicendo: ti rivedo figlio, ora posso morire, eccetera. Tobi si alzò incespicando, Tobia gli andò incontro tenendo in mano il fiore del pesce, soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo figlio, luce dei miei occhi. E aggiunse: benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti i suoi angeli santi, sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia. Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva, poi Tobia informò suo padre del viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è il benvenuto alla moglie di Tobia, Sara. Nel capitolo seguente c'è uno splendido discorso di San Raffaele, anche questo è un altro pezzo da immortalare. Ci sono tre discorsi da immortalare: il discorso di Tobi al figlio, il discorso di Tobia la prima notte di nozze e questo discorso di San Raffaele, che è qualcosa di stupendo e di spettacolare, che adesso con calma ci gustiamo. Quindi, terminate le feste nuziali, allora Tobi chiama Tobia e dice: qui dobbiamo pagarlo a questo, insomma, saltiamo i primi versetti. Allora dice: prendi come compenso, andiamo al 5, la metà di tutti i beni che hai riportato e vai in pace. Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, non esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Quindi state attenti al segreto del re, eh? Ci sono alcune cose intime e personali che vanno tenute nascoste, non si sbandierano, ma invece le opere di Dio vanno proclamate e manifestate a tutti. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici di se stessi. Vi invito, sono talmente chiare queste cose qui che non hanno bisogno di commento, a riprenderle però e a tornarci e a meditarle. Ognuna di queste frasi potrebbe stare oggetto di preghiera e di riflessione per diverso tempo. Voglio dirvi tutta la verità, senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre è motivo di onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Vedete che gli angeli prendono le nostre preghiere e le presentano davanti al nostro Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti, ricordate, abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Ma al tempo stesso Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora. Quindi vedete, Tobi non è stato punito da Dio. Tobi è stato messo alla prova. Compare il tema della sofferenza dell'innocente, del giusto, che poi vedremo ripresa nel libro di Giobbe. Lui pensava di essere stato punito, ma non era così. Era una prova della sua fede. Il secondo motivo per cui Dio manda alcuni mali. Non sempre sono castighi, a volte sono prove. Ve l'ho detto da tante volte anche durante le prediche. Sono tutte quante cose che si attingono agli insegnamenti della Bibbia, non sono invenzioni da parte degli autori. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti, sono andato per me. Ma al tempo stesso ti invio. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore. Vedete, qui ci dice una cosa fondamentale. Ci sono sette angeli, non so se sapete i nomi di tutti e sette, adesso ve li dico. Si chiamano in senso stretto i sette angeli o arcangeli assistenti, si chiamano. Si chiamano assistenti perché stanno alla presenza di Dio. Sono gli spiriti più elevati di tutti, quelli che stanno proprio intorno al suo trono. Insieme a Raffaele ci sta il nostro San Michele, c'è San Gabriele e poi gli altri quattro sono meno conosciuti. C'è una basilica a Roma dedicata ai sette angeli che sta a fianco alle terme di Diocleziano, che è Santa Maria degli Angeli e dei Santi. Lì trovate anche tutti quanti gli opuscoletti con tutti quanti i nomi che la tradizione ha dato di questi altri quattro angeli. C'è Uriele, in ebraico è Uriel, che vuol dire luce di Dio. C'è Barachiele, in ebraico Barachiel, che vuol dire benedizione di Dio. C'è Yehudiel, e c'è Sealtiel, o Sealtiele, o Salatiele, qualcuno lo... Sono i sette angeli assistenti, sono potentissimi questi qui, sono i sette principi del cielo. Il numero uno è San Michele. Il numero 2 è San Raffaele, il numero 3 è San Gabriele, il numero 3 è San Raffaele, e poi vengono questi altri quattro. Allora furono presi da timore tutti e due, grande, si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero grande paura, ma l'angelo disse loro: non temete, la pace sia con voi, benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero con voi, io stavo con voi per bontà, non per bontà mia, ma per la volontà di Dio. Quindi è Dio che gli ha mandato l'angelo. Lui dovete sempre benedire, a lui cantate inni. Quando voi mi vedevate mangiare, capite? Gli angeli possono apparire realmente a noi in sembianza umana, l'hanno fatto tante volte. Io non mangiavo affatto, ciò che vedevate era solo apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute. E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di Dio. Quindi, al capitolo 13, vi ricordate, c'era la supplica nel capitolo 3, c'è lo splendido canto di lode, non lo leggiamo tutto, leggiamo qualche stralcio, di Tobi. Alcuni di questi stralci sono stati presi nella nuova liturgia delle ore, quella dopo la riforma liturgica in lingua volgare, e formano alcuni passaggi delle ore canoniche. Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, egli castiga e ha compassione, vedete? Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli infermi nelle profondità della terra, fa risalire dalla grande perdizione, nessuno sfugge alla sua mano, Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso. E qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a Lui davanti a ogni vivente, poiché Lui è il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Padre, e Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi. Vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Vi invito, è molto lungo questo cantico di ringraziamento, a riprenderlo e a meditarlo con molta attenzione nella vostra preghiera personale. L'ultimo, proprio l'epilogo, il capitolo 14, narra il discorso di addio e la morte di Tobi. Quindi le ultime raccomandazioni che Tobi ha fatto Tobia prima di morire, e poi si chiude con la morte di Tobia. Anche qui vediamo qualcosa, qualche stralcio. Quando stava per morire chiamò il figlio Tobia, Tobi, e gli diede queste istruzioni: figlio, porta via i tuoi figli e rifugiati in Media. Va bene, praticamente gli dice di andare lì e poi di preparare una tomba per lui e per la moglie. Salto quindi qualche pezzo. Coloro che amano Dio, vado al versetto 7, seconda parte, qui. Coloro che amano Dio nella verità gioiranno, coloro invece che commettono il peccato e l'ingiustizia spariranno dalla terra. Ora figli, vi raccomando, servite Dio nella verità e fate ciò che a Lui piace. Anche ai vostri figli insegnate a fare la giustizia e l'elemosina, a ricordarsi di Dio, a benedire il suo nome in ogni tempo, nella verità e con tutte le forze. Tu dunque, figlio, parti da Ninive, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? E lo distesero poi sul letto dopo queste ultime raccomandazioni e morì e fu sepolto con onore. Quando morì la madre, Tobia la seppellì vicino al padre, poi partì per la Media, come gli aveva chiesto Tobi, con la moglie e i figli. Abitò a Ecbatana, presso Raguel e suo suocero, curò con onore i suoceri nella loro vecchiaia e li seppellì a Ecbatana in Media. Tobia ereditò il patrimonio di Raguel e quello del padre Tobi. Morì all'età di 117 anni, onorato da tutti. Prima di morire sentì parlare della rovina di Ninive e vide i prigionieri che venivano deportati in Media per opera di Achicar, re della Media. Allora benedisse Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e dell'Assiria. Prima di morire poté dunque gioire della sorte di Ninive e benedisse il Signore Dio nei secoli dei secoli. Avete visto che bello il libretto di Tobia? Quindi, dal momento che è di facilissima lettura, compito a casa, sono 14 capitoli, due al giorno, ve li rileggete e ve li meditate con attenzione, specialmente i passaggi assai istruttivi delle esortazioni. Ecco, vi ripeto, quella del padre, quella di Tobi nei primi capitoli, quella di Raffaele e queste ultime esortazioni di Tobi e anche la preghiera di Tobia quando incontra insomma Sara prima di unirsi in connubio. Va bene, ringraziamo anche noi il Signore dicendo insieme gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli, amen. Ok. Tutto tace ormai.